voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Saverio Quadrio Curzio e Cuci Terme, le terme da Bormio a New York, di Alessandra Scaglioni. Il nome dell'azienda di cui parliamo oggi è Cuci Terme. Gestisce le terme di Bormio, di Pré-Saint-Didier, di Milano e di Torino, per un totale di 500.000 accessi nel corso di un anno. E sta per costruire altri 4 centri, uno dei quali negli Stati Uniti. Alla guida ci sono i fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio. Ma tutto è partito dal padre e dalle montagne della Valtellina, come ci racconta Saverio Quadrio Curzio. È nato tutto a Bormio. Papà aveva comprato nel 1982 i bagni di Bormio, che erano delle antiche terme in Alta Valtellina, a quel tempo diroccate e lasciate alla malora. Nel 1982 lui le aveva comprate, però purtroppo poi lui è mancato nell'85, per cui non ha avuto tempo di sistemarle, di riqualificarle. E sinceramente io non ricordo neanche, perché è troppo lontano, quale fosse la sua idea. Credo che la sua idea fosse più un'idea curativa che un'idea di benessere. Passa qualche anno e iniziano i lavori per trasformare i vecchi edifici in qualcosa di nuovo. Io ho cominciato a occuparmene fattivamente nel 1998 e la mia idea era quella di trasformare queste terme, che erano delle terme ex curative, in terme del benessere. L'idea principale proprio del nostro gruppo è quella di portare, di fare di queste terme, di terme vecchie, diciamo, delle terme del benessere. E nel 98 abbiamo cominciato a lavorarci e abbiamo cominciato a mettere a posto i bagni vecchi, poi i bagni nuovi, poi abbiamo fatto le terme di Pré-Saint-Didier, che erano nella stessa condizione, come sono nelle stesse condizioni tante altre terme in Italia. Fiuggi, Acqui, Abano, hanno tantissimi edifici abbandonati, diroccati, che sono tutte spostate sul curativo e non sul benessere. Noi siamo dei gestori di benessere. Quella del benessere termale è una tendenza che è molto sviluppata in Austria e in Germania. In Italia si era sviluppata soprattutto nelle terme di Saturnia ed è una tendenza che la famiglia Quadrio Curzio ha intercettato e che negli anni successivi è esplosa. Le terme di Bormio hanno funzionato da subito. Quando noi abbiamo aperto i bagni vecchi, quando abbiamo cominciato, quando abbiamo sistemato i bagni vecchi, convertendolo a benessere, facendo le vaschette con gli idromassaggi, le piscine all'aperto e le saune, i bagni turchi, ha funzionato immediatamente, da un giorno con l'altro. Quando si è sparsa la voce a Bormio che c'era la piscina e i bagni vecchi, il giorno dopo sono arrivate 300 persone. Voglio fare il bagno nella piscina all'aperto e i bagni vecchi. E poi è diventato un fenomeno. Dopo le terme di Bormio arrivano quelle di Pré-Saint-Didier, entrambi luoghi di montagna in mezzo alla natura. Ma subito dopo parte il progetto di fare anche qualcosa di diverso. Dopo Pré-Saint-Didier abbiamo detto: ma se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. E dice: vabbè, proviamo a fare una terma in città. Ma devo dire, in questo è stata mia moglie che mi diceva: ma perché non fai le terme a Milano? E dice: ma come faccio a fare le terme a Milano? Fai un tubo dell'acqua che porta l'acqua da Bormio a Milano. Dico: sì, sarà facile, dico, facciamo un oleodotto, facciamo. E dice: ma no, però l'idea ha cominciato a frullarmi in testa. Allora ho cercato una location che fosse una location storica, cioè un edificio che fosse simile a quelli che avevamo fino a quel momento fatto, cioè Pré-Saint-Didier erano delle terme storiche, Bormio erano delle terme storiche. Ho cercato un edificio storico a Milano, ci ho messo un bel po' di tempo, poi l'ATM aveva fatto un bando per affittare per 20 anni questo edificio di Milano, di Piazza Medaglie d'Oro. Abbiamo partecipato alla gara, non potevi fare determinate cose tipo retail, tipo ristoranti eccetera, potevi farci solo musei, palestre o attività per il tempo libero. Noi abbiamo fatto la nostra proposta, l'ATM l'ha accettata. Abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione e l'abbiamo aperta. E funziona. La scelta che caratterizza la società è quella di ubicare le sedi in edifici storici, dove la ristrutturazione non è semplice, ma c'è un valore aggiunto che fa parte della tradizione imprenditoriale della famiglia. Noi avevamo un'impresa di costruzioni nella nostra famiglia, per cui che abbiamo venduto nel 2007 e abbiamo mantenuto alcuni uomini chiavi dell'impresa di costruzioni, per cui diciamo la parte di engineering la facciamo ancora con gli stessi uomini con cui gestivamo l'impresa di costruzioni. Questo ci avvantaggia molto perché riusciamo a fare tutti i progetti in casa e tutte le modifiche ai progetti in casa, quindi tutta l'evoluzione della, diciamo, ingegneristica ce la facciamo noi. Questo è un grande vantaggio che abbiamo avuto. E se tu però non hai una massa critica di almeno 6-7 centri, l'incidenza di costi di queste persone che studiano, realizzano, modificano questi centri benessere è molto elevato, cioè il costo di progettazione è elevatissimo. Partita con 5 persone, ora il gruppo Cucci Terme ha circa 400 dipendenti. La gestione fa capo alla famiglia. Il fatturato è in crescita. Intanto è piacevole lavorare con i propri familiari. Almeno io mi trovo molto bene a lavorare con i miei fratelli. Devo dire che ci dividiamo molto bene i ruoli. Mio fratello è molto, molto bravo nella gestione operativa di questi centri. Io sono più spostato sulla parte progettuale, di ideazione e ingegneristica, diciamo, e quindi ci compensiamo molto bene, ognuno fa la sua parte e ci confrontiamo spessissimo senza nessun problema, insomma. 2013 abbiamo fatto 30 milioni di fatturato, nel 2014 ne faremo vicino a 40, nel 2015 ne faremo tra 55 e 60. E se la crisi ha portato qualche difficoltà con la diminuzione della disponibilità di spesa, sul reperimento delle risorse economiche ci sono alcuni punti di forza. Ma io devo essere sincero, sulle risorse per sviluppare il business grandissimi problemi non abbiamo ancora avuti. Forse adesso cominciamo ad averli, cioè forse adesso abbiamo qualche difficoltà con le banche quando proponiamo delle nuove iniziative. Però devo dire sinceramente non grandissimi, perché noi siamo comunque generatori di cassa, cioè noi siamo generatori di cash flow, per cui le banche ci vedono bene, non abbiamo problemi a riscuotere i soldi, perché tu arrivi, paghi, entri, per cui non abbiamo insoluti, ecco. Quindi non creiamo una catena di sofferenza. Stanno per partire infatti diversi progetti nuovi che porteranno all'assunzione nel corso di quest'anno di un centinaio di persone. Il più avanzato è il progetto delle terme a Roma, che sorgeranno vicino al lago di Traiano, nella tenuta di una famiglia nobiliare. A ottobre dovrebbe prendere il via il progetto delle terme di San Pellegrino, vicino al casinò di San Pellegrino. Poi ci sono altri tre progetti in ballo, che sono uno in Val di Fassa, la costruzione di un nuovo centro benessere in una location che ha una vista sulle montagne circostanti straordinaria, perché secondo me le montagne, i laghi, la natura in questo paese sono la ricchezza vera di questo paese. Cerchiamo di farli vedere a tutti, insomma. Se noi facciamo un centro benessere in un interrato, non facciamo vedere le Dolomiti, cerchiamo di fargli vedere la Marmolada o il Civetta, cioè cerchiamo di fargli vedere la punta del Monte Bianco come si vede dalla piscina di Per Saint Didier, e uno dice: ma caspita, guarda che posto questo, bellissimo. Chamonix è un altro progetto che è dall'altra parte del massiccio del Bianco rispetto a Per Saint Didier e Courmayeur. Chamonix abbiamo vinto una concessione del comune, che ci ha dato un terreno in concessione per 30 anni, costruiremo un centro benessere e anche qui il Monte Bianco è grandioso, tutte le piscine avranno la vista sul Bianco, cioè comunque è uno spettacolo. E l'ultimo progetto, che è il più ambizioso e la sfida più grossa che abbiamo, è quello di fare un centro benessere a New York. Quella di New York era un'idea su cui il gruppo stava lavorando da tempo e che porta i fratelli Quadrio Curzio per la prima volta oltreoceano. Il comune di New York ha fatto un bando per cercare degli operatori che facessero delle proposte per degli immobili che aveva su un'isoletta di fronte a Manhattan che si chiama Governor Island, e noi abbiamo fatto una proposta per fare un centro benessere con una piscina che avrà di fronte proprio Manhattan e tutti i grattacieli. È una cosa un po' surreale, però l'hanno accettata e adesso stiamo cominciando la due diligence degli edifici e la progettazione. Partiremo con i lavori fine di quest'anno, inizio dell'anno venturo, e speriamo di essere pronti per fine 2015. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.